Ogni volta è sempre la stessa storia. Appena faccio così, succede questo. Oh mio Dio! Ma è nuda! Salve! Ci conosciamo? Beh, no, direi di no, me lo ricorderei. Va bene, scusa. Posso darti del tu? Grazie. Dimmi. Ma cosa, santo cielo? Beh, non lo so, spiegami dov'è che m'hai conosciuta. Ma io non la conosco. Spiritosissima, guarda, mi diverto un sacco, giuro. Continua. Ma cosa continua, santo cielo? Allora interviene l'altro che fa. Senta, signorina, ma non è che è lei che ci sta prendendo in giro? E poi si copra, per favore. E che mi devo coprire? La faccia? No, il corpo! Perché? So brutta, ve? No, è che fa freddo, dai, prendi freddo! Ma allora mi conosci anche tu? Interviene l'altra che fa. Certo che no! Ma scusa, ma se non mi conosce, ma come fa a sapere se fa freddo per me? E quando mi va o non mi va di prenderlo? Il freddo! Se c'è. Comunque, signori, non è proprio il caso di sconvolgersi, perché è molto probabile che noi ci siamo già visti da qualche parte, visto che io ormai sto un po' dappertutto. È proprio una delle mie caratteristiche. Ci sono delle circostanze in cui prima o poi appaio. Quando uno meno se lo aspetta, voilà! Io amo presenziare. E non costa manco niente la mia presenza, ormai anche quando lo faccio per lavoro io non mi faccio più pagare, perché è proprio una necessità la mia, io devo esserci, soprattutto se non c'entro niente. E non l'arrestano? Ma certo che no. E perché? Perché io sono così, io vivo così e mi chiamo così, come mi vedete. E cioè? Cioè come mi vedete? E non fa lo spiritoso te che non è nuda come in verme, quella è mia cugina. Io sono nuda, gratuita, tanto piacere. E ci confondono sempre, non lo so perché. A questo punto arriva sempre la più sconvolta di tutte che fa. Chi sei tu? Hai capito bene, bambola. Detto ciò, adesso vi prego, non fate le solite scene che fanno tutti, perché tanto io non sono pericolosa. Mi pare evidente. Non sono malata, non amo toccare né tantomeno essere toccata, a meno che non ricambio. Non sono un problema per nessuno e cerco di crearne il meno possibile. Tranquilli. Io presenzio. Beh, io sto aspettando mio fratello, Oh, ha detto che mi passava via quando finiva di lavorare, ma secondo me fa in tempo. Sta finì in servizio fotografico. Guarda, voi non ci avete un'idea di quanto sta a lavorare più di me mio fratello sto periodo? Io non lo so perché. Sarà che le donne e i froci stanno acquisiti sempre un pochino più di potere, no? E loro ovviamente tra me e mio fratello scelgono mio fratello. Però, guarda, detta la verità, io una volta lavoravo molto di più da adesso, ma proprio ad altissimi livelli. Cioè, a me mi chiamavano dei pittori famosi, degli scultori, degli artisti di fama internazionale. E mai una volta che mi sono sentita usata. Cioè, loro non è che mi chiamavano solo per far scandalo. Loro mi chiamavano perché io gli piacevo così, come so. Infatti, pare che sono molto naturale. E devo dire che me ci sento, Oddio, non è che mi mangio le bacche, insomma, i cibi precotti mi mangio pure io. E mo partono tutte disquisizioni su che cos'è naturale, cosa non lo è. Comunque io me ce sento naturale. Pure se non me ce fanno sentire più di tanto ormai. Però me ce sento. Ah, e comunque io in realtà stavo qua perché dovevo fare uno spettacolo teatrale. Poi ci hanno tagliato i fondi e il regista ha deciso di aprire un bordello. Pure se voi questo non lo dovreste sapere, perché in Italia è legale. Comunque, noi sto spettacolo non lo famo più. E non lo famo più nonostante fosse uno spettacolo comico, nelle intenzioni. Perché nei fatti, una tragedia. Eppure sto regista, che fa pure l'autore, voleva far ride, giuro, me l'ha detta a me. Ma non ne ha faccia, lui non è proprio capace. Però ci ha provato, mi ha detto, guarda, da oggi in poi noi famo solo spettacoli comici, perché attirano di più la gente. Dai, ammettiamolo, la gente si annoia un sacco a teatro. Il livello qualitativo è piuttosto basso. E poi calcola che spesso arrivi in una sala che è buia, ma buia vera, E prima ancora che si abbassano le luci per inizio dello spettacolo, le luci sono già basse. Ma perché sono rotte, mica perché è una scelta. E quindi mi ha detto, guarda, se tu vuoi lavorare ad altissimi livelli, tu devi assolutamente fare dei lavori commerciali. Ma che vuol dire commerciale? Ha detto e si comincia ad agitare, no? Commerciale vuol dire scadente? Non credo proprio. Commerciale vuol dire solo comico? Non mi pare. Commerciale vuol dire inutile a noi, al mondo, alla società, alle persone che ci lavorano dentro? Che vuol dire commerciale? Noiosamente ed esclusivamente d'intrattenimento? Oppure vuol dire che uno va a teatro perché c'è sta quel nome, che è già sentito, è già applaudito? Poi arrivi a teatro e c'è sta solo il cognome, perché il nome semmai dove ancora nasce, che poi se è bravo noi lo applaudiamo, per carità. Che vuol dire commerciale? Che risponde alla richiesta? Ma qual è sta richiesta? Se tanto l'offerta che può essere maggiormente applaudita è sempre la stessa, gestita dagli stessi e organizzata da diverse persone che si alternano per ricoprire gli stessi ruoli nello stesso modo. E io queste cose le posso dire, perché io presenzio. Un po' ovunque osservo, elaboro e devo farlo in maniera naturale e quindi inoffensiva. Perché tutti, ma proprio tutti mi vedono così, indifesa, ingenua e senza protezione. Che poi lo sono, no? Che sono naturale, l'abbiamo già detto. So pure indifesa e ingenua, se vogliamo. E chi l'ha detto che l'ingenuità equivalga alla stupidità e vada sottovalutata? Io ho un grande rispetto della mia ingenuità. Io me la coltivo come una ragazzina. Io a lei sì che la preservo da tutto e da tutti. Lei. E guardate che non è facile, quando bisogna presenziare, elaborare, riflettere un po' ovunque. Non è facile perché bisognerebbe non avere alcun senso critico, alcun principio di morale. E chi l'ha detto che la mia naturalezza ne sia priva? Solo perché uno mi vede arrivare così come so. Pensa che la mia semplicità derivi da mancanza dei valori, come l'obiettività, l'orgoglio, per esempio, ma soprattutto la mancanza di dignità, nel senso che pensano che sto così perché dipendo da qualcuno che me ce vuole così, come le puttane. E chi l'ha detto che le puttane fanno sto mestiere solo per necessità e costrizione? Magari alcune di loro hanno una dote naturale, una particolare propensione a guadagnarsi il pane e il salame vendendo il loro corpo e il loro incommensurabile piacere. E allora? O farei pure io con qualche certezza in più, perché no? Ah, certo, così no, In strada, al freddo, in balia dei maniaci, in balia di quei cretini che ancora si divertono a fare il puttan tour, sti imbecilli che non l'hanno ancora capito che quello è un lavoro serio, molto utile, commerciale, gran successo. Che poi mi pare a me che va un sacco di moda, no? Sai quanto glielo invidia chi lavora il doppio delle ore in qualche fabbrica? Torna a casa la sera, si ritrova un poveraccio che neanche se le caga, un cretino che sicuro fino a 2 minuti prima e non lo ammetterebbe mai. Si è divertito con qualche bella puttanona libera e divertitamente professionista, non repressa, non soggetta ai sacrifici e alle pene della vita. Mentre la casta lavoratrice, madre di famiglia, passa tutta la vita così, soggetta alle pene. Alle pene. Che ironia della sorte, eh? Beh, ironia della sorte sì, perché magari loro hanno altre aspirazioni che non hanno niente a che vedere col plurale femminile. Però plurale femminile è una parola un po' erotica, no? Oddio, che state a pensare, una gangbang? Figuratevi se ho tempo da perdere a fare gangbang con voi, con tutto quello che ho da fare stasera. Anzi, fatemi andare. Nicole mi aspetta. Dobbiamo fare una sfilata. No, vabbè, ma lei c'ha il bikini, oh, è più zozza di me. Vabbè, fa politica. No, però non per molto ancora. Ha detto che poi si piglia il vitalizio e fa come gli pare, insomma. Sperando che non trovo traffico, guarda, come altra volta. Non ci posso pensare. No, ma io dico, no, ma almeno chiedi scusa. No, loro si offendono, si risentono o addirittura fanno gli indifferenti. Come quella cretina che ho incontrato l'altro giorno mentre correvo non so dove. Io correvo non so dove, ma appena l'ho vista, in difficoltà, in mezzo alla strada, che nessuno la faceva passare, gli sfrecciavano accanto spettinando la tenera cornice di capelli biondi che adornava il tetto di quella timida e spaurita passerotta. Appena l'ho vista, dicevo, ho frenato per farla passare. E lei? Ha attraversato la strada senza neanche degnarmi di uno sguardo, quasi offesa. Ma se sa de cosa. Ma dico, ma fallo un sorriso, no? Un gesto con la mano, col sopracciglio, che ne so. Cioè, io sono in ritardo e me ne frego. Inchiodo, che un altro po' mi tamponano e tu attraversi la strada, ma con una faccia di cazzo, tutta rigida e sostenuta, come se invece di farti una cortesia ti avessi sputato in un occhio. Ma non ci stavano manco le strisce. Ma io dico, ma un po' di educazione, di solarità, di buona disposizione d'animo, quantomeno nei confronti di chi non si comporta da stronza. Non è che te sto a dire che mi devi sposare per questo, ma almeno apprezza una cazzo di gentilezza nella vita.